questo giorno. Le notizie in 60 minuti. Di Simone Spezia. Individuato in Iraq un foreign fighter proveniente dall'Italia. In un video il figlio di 10 anni lancia minacce all'Occidente. Un giudice inglese dà il via libera all'ibernazione di una 14enne malata di cancro. Il suo corpo portato negli Stati Uniti è congelato con la criogenesi. Dieselgate, i tagli di Volkswagen, 30.000 persone via entro il 2020. Annunciati investimenti nell'auto elettrica e nel digitale per 3 miliardi e mezzo. Caso Foodora, dopo le proteste dei rider a Torino, parla l'azienda Radio 24. Senza flessibilità il nostro modello è insostenibile. Bomba nell'agriturismo che avrebbe dovuto ospitare i profughi nel Sassarese la settimana scorsa, busta con proiettili al prefetto di Cagliari. Serie A, la 13ª giornata si apre domani alle 15 con Chievo-Cagliari, si chiude domenica sera con il derby di Milano. Una buona giornata da Simone Spezia, bentornati a Effetto Giorno, le notizie in 60 minuti, il punto a metà giornata di Radio 24 su quello che succede in Italia e nel mondo, i nostri contatti 349-238-6666 per i vostri sms, per i messaggi su WhatsApp, effettogiorno@radio24.it se ci volete scrivere. Tra un attimo parleremo della vicenda del foreign fighter individuato in Iraq, ma prima vi do una notizia che arriva in questi minuti. Secondo quanto riporta il quotidiano La Repubblica sul suo sito, ci sarebbero almeno 8 indagati nel Movimento 5 Stelle a Palermo per la vicenda delle firme false per la candidatura di Riccardo Nuti al comune di Palermo. Questa è la notizia che viene appunto riportata dal quotidiano La Repubblica in questi minuti. Tra l'altro Claudia La Rocca, la deputata regionale che ha collaborato alle indagini della Procura di Palermo, si è sospesa e appunto aveva confessato e collaborato con la Procura di Palermo. Vedremo se riusciremo ad aggiornarvi ulteriormente su questa notizia nel corso della trasmissione. Stiamo cercando anche qualche reazione dallo stesso Movimento 5 Stelle. Vedremo se avranno voglia di parlare in questi minuti. Intanto ci andiamo alle notizie principali di questa giornata, iniziando appunto dalla vicenda del foreign fighter. Sinderde inshallah. C'è un filmato in cui un bambino di 12 anni e un uomo, combattenti per lo Stato islamico, rivolgono pesanti minacce all'Occidente. E c'è un filo che parte da questo filmato girato in Iraq e arriva fino a Bresso, a due passi da Milano. È quello che raccontano le indagini del PM antiterrorismo di Milano Enrico Pavone. L'uomo del filmato si chiama infatti Taskur Ahmed, marocchino del 69. È residente a Bresso, in provincia di Milano, dove viveva fino a un anno fa, con permesso di soggiorno e un lavoro stabile in un'impresa di pulizie. Secondo il PM non era neppure particolarmente religioso ed era inserito in Italia. A Natale ha chiesto un anticipo del TFR e con la moglie e i due figli minorenni ha lasciato l'Italia dicendo che voleva tornare in Marocco. Invece dai tabulati risulta che Taskur è andato prima in Turchia e da lì è entrato in Iraq, dove a quanto pare è stato arruolato fra le truppe del sedicente Stato Islamico. Valentina Furlanetto, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Ne ha parlato lungamente anche Gianluca Nicoletti, come avete sentito, la vicenda che arriva dalla Gran Bretagna e che riguarda la ragazza di 14 anni che si è fatta ibernare. Ibernata post mortem su sua richiesta. È una battaglia legale senza precedenti, quella che ruota intorno alla vicenda di una 14enne inglese malata terminale di cancro, che ha ottenuto dai giudici la conservazione del corpo anziché la sua sepoltura, nella speranza un giorno di essere risvegliata e guarita con nuove cure. Il verdetto, emesso poco prima della morte della ragazza, avvenuta lo scorso ottobre, è stato reso pubblico solo ora, dopo che il corpo portato negli Stati Uniti è stato congelato tramite criogenesi. L'ibernazione è stata autorizzata da un giudice dell'Alta Corte di Londra con il consenso della madre e contro il volere del padre. I due sono divorziati. Era stata la ragazza, promuovendo l'azione legale, a chiedere che la madre fosse l'unica persona a prendere la decisione. La sentenza, hanno precisato i giudici, è basata sulla disputa tra i genitori e nell'interesse della ragazza, non in quello della scienza. Maria Luisa Pezzali, Radio 24, Il Sole 24 Ore. E veniamo alla politica, sulla quale influirà sicuramente quello che vi abbiamo raccontato in apertura, ossia la vicenda del Movimento 5 Stelle, ma intanto soffermiamoci sullo stato dell'arte a partire dalle vicende della maggioranza, ovviamente, in vista del referendum. Elisabetta Fiorito, buongiorno. Sì, proprio così, Simone, una giornata divisa tra impegni internazionali e campagna referendaria, quella del premier Matteo Renzi è a Berlino per la riunione dei capi di Stato e di Governo insieme alla cancelliera tedesca Angela Merkel e al presidente statunitense Barack Obama, ma alle 17 sarà a Palazzo Chigi per fare il punto sui 1000 giorni di governo. E nel PD Renzi incassa il sì di Gianni Cuperlo, per il quale non bloccare questo progetto di riforma è la scelta giusta, la vittoria del no al referendum potrebbe determinare in un primo luogo un incasso da parte delle forze della destra, dice Cuperlo. Dalla minoranza Dem però Roberto Speranza invece continua a dire no, il referendum non è un plebiscito, Renzi sì, Renzi no, lui sbaglia a considerarlo così e se vince il no un governo c'è e può continuare. Altro capitolo è quello del governatore della campagna Vincenzo De Luca, dopo le parole contro Rosi Bindi, ricordiamo, dice De Luca, quello che fece in antimafia è stata una cosa infame. Alla Zanzara Vincenzo Danna del gruppo Diala rincara la dose. L'unico nemico che la Bindi ha è madre natura. A te Simone. E grazie dunque Elisabetta Fiorito, il quadro dall'opposizione. Dalla Lega 5 Stelle a Forza Italia, per le opposizioni l'appuntamento referendario è l'occasione per mandare a casa un governo che non sta affrontando, a loro dire, i problemi del paese. Il referendum, scrive Grillo sul blog, non spazzerà via solo il governo, ma anche i D'Alema, i Bersani, Berlusconi and Company, che sono i kamikaze del no. Spazzerà via la casta e poi ci sarà un governo legittimato dal popolo, dunque la posta in gioco, dice, è altissima. E intanto continuano i movimenti nel centrodestra. Stefano Parisi lancia il suo movimento politico Energie per l'Italia, alternativo, dice, a Renzi e alla sinistra. Non abbiamo più tempo di fare coalizioni che mediano e non producono nulla, afferma il manager, precisando non è vero che siamo stati finanziati da Silvio Berlusconi. Quest'ultimo invece chiede al centrodestra di restare unito per incassare la vittoria del no, un no che a suo dire non mette a rischio la stabilità del paese. Nessuna instabilità, dice anche da Sinistra Italiana Arturo Scotto, capogruppo alla Camera. Renzi la smetta con scenari apocalittici. Una cosa è certa, chiose il leader della Lega Salvini, Renzi sarà leader ancora per 15 giorni, poi io sono pronto, noi siamo pronti, la squadra è pronta. Alessandra Schepisi, Radio 24 e Sole 24 Ore, Roma. Spostiamoci all'estero per parlare di economia e per parlare di Volkswagen che annuncia un maxi piano di tagli. La Volkswagen taglierà 30.000 posti di lavoro entro il 2020. Il piano di riassetto, che punta a lasciare alle spalle il Dieselgate e ad aumentare la redditività della marca tedesca, è stato concordato con i sindacati dopo una dura trattativa ed è stato presentato stamane dall'amministratore delegato Matthias Müller. La riduzione dell'organico riguarderà soprattutto i siti tedeschi del gruppo, 23.000 tagli sul totale di 30.000, e non vedrà licenziamenti ma solo prepensionamenti, passaggio al part-time dei dipendenti più anziani e il mancato rinnovo dei contratti a termine. Il cosiddetto piano futuro punta a una riduzione dei costi di 3,7 miliardi di euro l'anno entro il 2020, di cui 3 miliardi in Germania, e prevede un investimento di 3 miliardi e mezzo di euro nella ristrutturazione dei siti tedeschi. Per compensare i tagli all'organico, Volkswagen ha assicurato investimenti significativi in una trasformazione tecnologica che punta sull'auto elettrica e digitale. Tali investimenti porteranno alla creazione di 9.000 nuovi posti di lavoro. L'azienda si è inoltre impegnata a non effettuare licenziamenti in Germania fino al 2025. Andrea Malan, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Ed è arrivato un annuncio da Fiat Chrysler poco fa. Il responsabile Fiat Chrysler per il mercato italiano, Gianluca Italia, in una conferenza online ha annunciato un accordo commerciale per la vendita di alcuni modelli di Fiat sulla piattaforma di Amazon. Fiat 500, 500L e Panda, le auto al momento acquistabili online con sconti che vanno dal 20 al 33%. Apriamo, dice, una finestra su un nuovo orizzonte. Oggi è la giornata mondiale nella quale si ricordano le vittime della strada, sono state 26.000 in Europa e in Italia ci sono segnali di crescita nel 2015. Quali conclusioni possiamo trarre da questi dati? Lo chiediamo a Maurizio Caprino del Sole 24 Ore, che linea con noi. Maurizio, buongiorno e dacci un'idea. Buongiorno, allora sì, come hai detto tu, le vittime stanno tornando a salire in Italia ed è quindi un'occasione molto favorevole questa della giornata del ricordo delle vittime, però deve essere un'occasione che dobbiamo prendere veramente bene, perché altrimenti se continuiamo a dire le solite cose andiamo a finire fuori strada. Dobbiamo dire intanto che le vittime crescono anche perché i risultati del decennio, quindicennio scorso, non solo in Italia ma anche in tutta Europa, sono stati molto positivi, quindi ci si avvicina a una soglia nella quale diciamo il numero di vittime diventa incomprimibile se non si fa qualcosa d'altro. Per qualcosa d'altro intende, dal punto di vista ovviamente del comportamento dei conducenti, a lungo termine la guida autonoma, però quindi l'auto che guida da sola e quindi fondamentalmente non dovrebbe sbagliare tanto quanto sbagliamo noi alla guida, però non basta ancora, perché bisogna metterci in testa che bisogna fare ancora di più, e qui tiriamo dentro diciamo certe scelte delle classi dirigenti, cioè voglio dire, intanto c'è la sanità, nel senso che soccorsi, ospedali più efficienti, più sicuri, più presenti faranno diventare solo feriti domani quelli che oggi sono morti. E poi c'è il grande nodo delle infrastrutture, perché anche noi diamo notizia a volte di cavalcavia che crollano, e in Italia in questi ultimi anni ce ne sono stati fin troppi. Abbiamo avuto la più grande strage stradale italiana nel 2013, luglio 2013, 40 morti, nessuno l'ha commemorata dopo soli 3 mesi e mezzo, la giornata di commemorazione delle vittime c'è stata anche appunto nel 2013, non se ne è parlato assolutamente, anche lì sul banco degli imputati, come si è poi visto nel processo che è in corso ad Avellino, ci sono le infrastrutture, un guardrail che non teneva. Cosa voglio dire con questo? Voglio dire che bisogna a questo punto agire in maniera globale, tirar dentro anche il modo di costruire e di mantenere le infrastrutture. Vediamo tutti i giorni le storie di mazzette, di consulenze, di controlli omessi, eccetera, eccetera, e ovviamente non possiamo non pensare che queste cose non impattino sulle cifre che stiamo commentando, le cifre dei morti su strada. Se non pensiamo a questo, la giornata europea, la giornata mondiale del ricordo delle vittime della strada diventa soltanto un'occasione di visibilità per alcune associazioni, e questo assolutamente non va bene. Ti ringrazio, grazie a Maurizio Caprino del Sole 24 Ore per questo commento in diretta su questa giornata. Adesso ci occupiamo di sport, ma prima ancora di parlare di calcio, parliamo di una vicenda che riguarda la pallanuoto, riguarda quella che è la squadra più forte del mondo, e ci sono sospetti che i giocatori siano stati pagati in nero, sentiamo. Ci sono due testimoni che nell'ambito di cause di lavoro denunciano un giro di pagamenti in nero triangolati dalla Svizzera, c'è un'indagine del nucleo di polizia tributaria finora senza indagati, c'è un'ombra che aleggia su una leggenda dello sport nazionale, la squadra della Prorecco, che nella pallanuoto è un po' come il Barcellona del calcio, anzi di più, vince sempre, vince ovunque. Da anni il patron del club è Gabriele Volpi, facoltoso imprenditore specializzato nella fornitura di servizi logistici ai petrolieri della Nigeria e titolare del 6% di Banca Carige, oltre che dello Spezia Calcio. L'ombra nella quale si stanno inoltrando i finanzieri riguarda l'esistenza, finora solo nelle dichiarazioni dei testimoni, di una contabilità parallela a quella ufficiale, attraverso la quale, almeno fino alla stagione 2013-2014, veniva pagata una parte degli ingaggi dei campioni, molti dei quali stranieri, che nel corso degli anni hanno collezionato coppe e scudetti come figurine. Tra i beneficiari di questo presunto giro di pagamenti occultati al fisco figurano quindi nomi che hanno fatto la storia della pallanuoto mondiale. Tra loro ci sarebbe anche l'attuale presidente della Prorecco, Maurizio Felugo, il quale nega qualsiasi coinvolgimento nei fatti. Andrea Ferro, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Genova. Usciamo dall'acqua e andiamo nei campi di calcio per la giornata di campionato, che si concluderà con il derby di Milano. Carlo Genta, ciao. Simone, beh, non è detto che usciremo dall'acqua, visto che il tempo non è un granché, almeno su Milano, dove... Speriamo che comunque non sia una piscina. Non sia una piscina. Domenica sera c'è un attesissimo derby che chiude Milan-Inter, che chiude il cartellone di questa giornata, la numero 13. Però si comincia domani con Chievo-Cagliari, che non è certo una partita di cartello, alle 15, ma poi ci sono il Napoli e la Juventus. Il Napoli gioca a Udine domani alle 18, un campo che l'anno scorso insomma segnò in qualche modo la fine del sogno scudetto del Napoli. La Juventus invece riceve il Pescara in un turno che dovrebbe essere molto più morbido. Poi domenica se ne riparla con Atalanta-Roma, che è una partita molto attesa, visto il rendimento dell'Atalanta, che è la grande rivelazione fin qui di questo campionato, e vista anche la grande rivalità che c'è tra le due tifoserie. Poi Sampdoria-Sassuolo, Bologna-Palermo, Crotone-Torino, Empoli-Fiorentina, Lazio-Genoa, tutto questo domenica pomeriggio, e appunto domenica sera il derby della Madonnina che chiuderà il cartellone, che è molto atteso perché il Milan sta andando molto bene con Montella, l'Inter ha appena cambiato allenatore con Stefano Pioli, che avrà la sua prima panchina nerazzurra, e dunque un sacco sono i temi che ruotano intorno a questa gara. Allora, grazie Carlo, temi che sicuramente esplorerete a partire dalle 14 in tutti i convocati. Noi adesso ci fermiamo, andiamo a sentire cosa succede sulle strade e poi inizieremo il nostro giro per l'Italia. Andremo innanzitutto in Sardegna, dove stanno moltiplicando gli episodi, per così dire, di intolleranza a Buddusò, e siamo nel Sassarese. Una bomba ha distrutto un agriturismo che era destinato all'accoglienza di migranti e nei giorni scorsi è arrivata una busta con proiettili al prefetto. E poi ci occuperemo di una vicenda raccontata oggi dal Corriere della Sera che ci ha incuriosito. C'è un fantino del Palio di Siena che è indagato per violenza e andrà a processo, e i contradaioli non ci stanno. OneExpress.it, il pallet network italiano che viaggia in Europa, vi presenta Effetto Giorno. Effetto Giorno, le notizie in 60 minuti, il punto a metà giornata di Radio 24 su quello che succede in Italia e nel mondo. Al microfono sempre Simone Spezia. Nella prima parte della trasmissione abbiamo parlato del foreign fighter proveniente dall'Italia, individuato in Iraq. Abbiamo parlato del giudice inglese che ha dato il via libera alla ibernazione di una ragazza di 14 anni malata terminale che è morta in ottobre. Abbiamo parlato dei tagli di Volkswagen a causa del Dieselgate. Adesso iniziamo il nostro giro per l'Italia. Prima ancora di andare in Sardegna per occuparci di immigrazione, andiamo a Siena. C'è una vicenda che è riportata oggi dal Corriere della Sera e che riguarda il fantino Massimo Columbu, noto come Veleno II. Nel Palio del 2 luglio 2015 placcò letteralmente l'avversario di un'altra contrada che cadde da cavallo e perse la gara. Che cosa succede? Succede che nel Palio di Siena queste cose non sono forse normali, ma più o meno siamo là, e però in questo caso è deciso di intervenire la giustizia e il fantino andrà a processo. È deciso di intervenire il procuratore. Apriti cielo, i contradaioli sono imbestialiti. Abbiamo noi uno di loro, che è Andrea Bianchi Sugarelli, che è un giornalista del Corriere di Siena ed è anche un contradaiolo accanitissimo. Buongiorno e benvenuto, Andrea. Buonasera a tutti, ciao. Allora, che cosa rappresenta per voi contradaioli un fatto di questo genere? La giustizia ordinaria che irrompe nel Palio di Siena. Ma è un argomento abbastanza complesso. Il Palio del resto si regge su un'intesa che si può paragonare alla giustizia sportiva, cioè quella che le parti fra di loro, in questo caso le contrade, hanno in un garante, ovvero il Comune di Siena, colui che regola proprio i rapporti con le contrade stesse e gestisce le dinamiche del Palio. In questo caso è arrivata una novità, che è un terzo incomodo, ovvero la magistratura, che di fatto fa saltare un equilibrio che dura da secoli. Ora, quello che è successo nell'ostacolo tra un fantino e l'altro è da, come dire, focalizzare su più contesti, e non sto qui a raccontare quelli che possono essere gli episodi anormali per la giustizia ordinaria. Però qualcosina lo possiamo dire, no Andrea? Cioè, frustate tra fantini... Sì, non consegna, è... No. Ma... Nerbate, la consegna dei nerbi, tra l'altro all'uscita dell'entrone da parte di un pubblico ufficiale, o il fatto che il cantino riceva un compenso per montare a cavallo, come succede diciamo anche in altre parti d'Italia, soprattutto nei loro confronti che sono professionisti. Però ecco, non voglio dire che la magistratura ordinaria non debba svolgere il suo compito regolato dai codici di giustizia, ma purtroppo si è intromessa subito in un contesto venendo meno al rispetto di una tradizione, di una convenzione che disciplina i rapporti di una comunità da secoli. Vede, questa è una comunità che negli ultimi anni ha subito di tutto, dalla crisi del Monte dei Paschi che ha diviso ed annientato le dinamiche della vita sociale dei senesi, fino ad arrivare ai processi che hanno coinvolto tutte le istituzioni senesi, dall'università fino allo sport. Un clima che ad oggi posso dire che si è rivelato come una caccia alle streghe, visto che già da diversi, per diversi processi si sono conclusi con le assoluzioni piene, o addirittura con le archiviazioni. Mancava il palio e ce l'hanno infilato dentro. Senti Andrea, sai quale può essere la critica che viene da fuori? Insomma, non è che siete una repubblica a parte, cioè se succede una cosa di questo genere uno trascina un altro giù da cavallo e rischia magari di ammazzarlo, insomma qualcuno dovrà intervenire o no? Ma questo sicuramente, ma io non dico infatti che non debba intervenire, e anzi paradossalmente questo processo Alfantino può diventare per le contrarie e per Siena un ritorno a prendere coscienza del proprio ruolo e per consolidare le regole non scritte del palio. Però serve anche dire che, parlando fuori da termini contradaioli, il palio è una giostra e, se vogliamo, una gara sportiva. Chi partecipa sa benissimo i rischi a cui va incontro. Di precedenti ce ne sono molti, addirittura nel 1832 un Fantino fu condannato a 8 giorni di carcere e all'esilio perpetuo dal vicariato senese, solo per dirti quelle che sono state quello che è stato il passato del palio. La straordinarietà di questo fatto è tale perché da oltre 20 anni non avveniva una cosa del genere. Ma chi corre sa a cosa può andare incontro, quindi dalle curve pericolose fino alle nerbate di cui parlavamo prima. Si sta parlando di quello che è il palio di Siena, cioè un gioco secolare con dinamiche ben conosciute. Sì, è ben note. Come detto, si tramandano da secoli. Il palio ha un suo regolamento ben preciso. Già prima della sua valutazione per questo atto, insomma, è stato travalicato dall'iniziativa della magistratura. Vedremo come andrà a finire, ma certamente il palio non finirà con questo processo. Il Fantino Massimo Colombo è già stato condannato a 10 pali di squalifica, probabilmente non correrà più, ma si entra in un contesto in cui purtroppo devo evidenziarlo, è venuta meno anche l'autorevolezza del comune, di chi, deve controllare tutto questo. Insomma, è venuta meno l'autorevolezza perché interviene la magistratura. Allora Andrea, io ti ringrazio, immagino che a Siena in questo momento non si parli sostanzialmente di altro. Noi passiamo ad altro argomento, un argomento diciamo più importante, che è quello dell'immigrazione e quello che è successo a Budduso, e siamo in provincia di Sassari. Che cosa succede? Succede che il prefetto annuncia al sindaco che una struttura, un agriturismo in disuso da anni verrà utilizzato per ospitare una 50ina di migranti. Il sindaco convoca un consiglio comunale, casualmente la notte stessa una bomba dentro quell'agriturismo lo distrugge quasi completamente, lo rende quantomeno inutilizzabile. Questo segue all'attentato incendiario che è avvenuto alla caserma di Monastir nella notte fra il 10 e l'11 ottobre, siamo in questo caso in provincia di Cagliari, al proiettile inviato con minacce specifiche che riguardavano il tema dei migranti proprio al prefetto di Cagliari. Abbiamo in linea con noi Angela Quacquero, che è delegato dal presidente della regione Sardegna al tema dei migranti e dell'integrazione. Buongiorno Quacquero, benvenuta. Buongiorno a voi e a tutti gli ascoltatori. Allora, cosa succede? Ma succede che intanto diciamo subito che questi atti sono esecrabili e che sono stati veramente condannati da tutta la società civile e dalle istituzioni ovviamente. Ma succede, io credo, che la gente e le persone hanno bisogno di capire che cosa accade, chi sono le persone che arrivano, e forse ha bisogno di un coinvolgimento diverso. Io credo che questi grandi numeri ci facciano riflettere sul fatto che dobbiamo affrontare in maniera più strutturata questa ondata, questo fenomeno importante di cui siamo co-protagonisti, perché lo siamo, e questo significa anche però trovare le risorse, i modi per coinvolgere popolazioni. Ma quindi qua però il tema è anche che queste cose non vengono spiegate bene alla cittadinanza, ma questo sostiene lei. Ricordiamoci che quando arrivano le persone i comuni vengono informati, però normalmente il rapporto è diretto fra gli organismi dello Stato, le prefetture in questo caso, e gli organismi accoglienti, cioè le cooperative, le strutture eccetera. Non si fa, forse non si può fare in questa situazione, ma dovremmo poterlo fare invece, una seria riflessione sul numero che le popolazioni, il numero di persone accolte che le popolazioni possono ricevere e possono accogliere in maniera costruttiva. Allora, io credo veramente che sia il momento di lavorare perché i comuni possono avere una percentuale di accoglienza, una distribuzione razionale, ma soprattutto perché possano essere i protagonisti dell'accoglienza. E questo è un grande tema. Io la ringrazio per aver posto questo tema, perché è il tema che poniamo da tempo. Spesso succede che i prefetti avvisino i sindaci, è successo anche a Goro, a Gorino, la vicenda che ampiamente abbiamo raccontato. I prefetti avvisano i sindaci magari 12 ore prima, arrivano i profughi, arrivano i migranti, non c'è un minimo di preparazione, non c'è la possibilità da parte del sindaco nemmeno di scegliere il luogo che ritiene più adatto. Ringrazio il capogruppo del Movimento 5 Stelle all'Assemblea Regionale Siciliana, Matteo Mangiacavallo, che ha accettato di parlare con noi. Buongiorno, benvenuto. Sì, salve, buongiorno. Perché? Perché la notizia è che ci sarebbero, questo è quello che riferisce il quotidiano La Repubblica, almeno 8 indagati del Movimento 5 Stelle a Palermo per la vicenda delle firme false per la candidatura alle comunali di Palermo. È arrivata una confessione piena dalla sua collega, la deputata regionale La Rocca, la quale tra l'altro ho saputo che si è sospesa dal Movimento. Ci dice che cosa ne pensa di tutto questo? Beh, intanto vi ringrazio per averci chiamato per questo scambio. Vabbè, si tratta comunque di qualcosa che risale al 2012, in cui il movimento ancora non c'era, diciamo, si stava preparando per le comunali di Palermo e quindi le firme servivano proprio per quello. Sono dei fatti di cui praticamente siamo venuti a conoscenza attraverso il programma Le Iene e di cui praticamente ci siamo dispiaciuti immediatamente e quindi ci siamo subito definiti parte lesa di tutto questo processo e stiamo aspettando che ovviamente vengano fuori i nomi per poi prendere i dovuti provvedimenti. È chiaro che non aspetteremo il corso della magistratura appena sapremo chi è stato responsabile di questo fattaccio. E i responsabili verranno espulsi, immagino. Sì, qualche provvedimento sarà assunto, ammesso che si arrivi subito a capire, insomma, ad accertare le responsabilità di tutto l'accaduto. Qualcuno dice che la sua collega, la Rocca, avvisò Grillo prima della confessione dei magistrati e Grillo nega. Lei ne sa qualcosa di questo? Ci avrà parlato con la Rocca, immagino, no? Beh, no, lei insomma non viene più in assemblea da qualche giorno, quindi si è riservata, insomma, si è stretta un po' nel silenzio, e quindi di questi particolari non ne sappiamo nulla. Ne sa più la stampa qua che noi alla fine. Getta un'ombra sul Movimento in Sicilia questa vicenda? Ma no, dico proprio di no, perché si tratta, ripeto, di fatti che accaddero prima ancora dell'avvento del Movimento 5 Stelle in Sicilia. Insomma, era la prima volta che si presentava il movimento, tanto che c'era bisogno di firme. E quindi no, assolutamente no. Qualcosa che ovviamente aspettiamo tutti che venga chiarita, e dopodiché i responsabili saranno adeguatamente sistemati e tutto si riparte. La ringrazio, grazie a Matteo Mangiacavallo, capogruppo del Movimento 5 Stelle nell'Assemblea Regionale Siciliana. Ci fermiamo, c'è la borsa, come sempre ci ritroviamo subito dopo. Il nostro giro per l'Italia toccherà tra l'altro la provincia di Pavia, dove è arrivato un allarme che poi si è rivelato essere una bufala, di un furgone bianco che si ferma e rapisce i bambini davanti alle scuole. Addirittura un sindaco ha affisso un manifesto per dirlo, solamente che questa è una vicenda ricorrente, cioè una bufala che si era già diffusa 2 anni prima, e parleremo proprio col sindaco e cercheremo di capire come sono andate le cose. Tra poco. Effetto giorno. Effetto giorno, le notizie in 60 minuti il punto, a metà giornata di Radio 24 su quello che succede in Italia e nel mondo. Al microfono sempre Simone Spezia. I nostri titoli: ci sono 8 indagati nel Movimento 5 Stelle per la vicenda delle firme false a Palermo. Come avete sentito poco fa, il capogruppo in regione del Movimento 5 Stelle dice saranno sistemati, saranno puniti. Un giudice inglese ha dato il via libera all'ibernazione di una 14enne malata di cancro e il suo corpo portato negli Stati Uniti. Individuato in Iraq un foreign fighter proveniente dall'Italia, in un video il figlio di 10 anni lancia minacce all'Occidente. Il Dieselgate, i tagli di Volkswagen, 30.000 persone via entro il 2020 la borsa. Fineco, la banca numero 1 in Europa nel trading. vi presenta Arte, cinema, musica, letteratura. A diventare grandi si comincia di domenica e con la cultura non smetti mai di crescere. La Domenica del Sole 24 Ore ti aspetta in edicola con C'è qualcuno che sa leggere, il nuovo appuntamento dedicato ai più giovani. Effetto giorno. Vi leggo qualche titolo. Incubo molestatore, un uomo col furgone avvicina i bambini. Due episodi a Somalia e Codogno, caccia l'uomo nella bassa. Un finto clown rapisce i bambini, ha un furgone bianco. Psicosi nel milanese, qua siamo al 2014, il primo titolo era del 2016. E poi rapiscono bambini col furgone bianco e poi il dietrofront. Il dietrofront è del sindaco di Zerbo, provincia di Pavia, Antonio Petralei Razzini, che ha affisso un manifesto scatenando il panico nella zona, sostanzialmente, sindaco, dicendo: attenti a un furgone bianco, rapiscono i bambini. In realtà non è vero. Buongiorno. Aspetta. Buongiorno. Buongiorno, buongiorno, ecco. A lei. Eccoci qua. Ma che ha fatto? Ma io ritengo di aver fatto una cosa abbastanza semplice, che credo che chiunque in una situazione del genere avrebbe agito così. Cioè, nel senso che non è che mi sia svegliato una mattina impazzente. Io sono stato notiziato semplicemente da una struttura istituzionale di un paese vicino, nella quale mi si diceva che erano stati allertati a presidiare il territorio per questo famoso furgone bianco. Quindi ho ritenuto di fare cosa giusta. Ad Ma una struttura vicina a cosa? Un comune vicino, immagino? Sì, esatto. E quindi ho pensato di affliggere alla bacheca comunale, che ne abbiamo tre di questi avvisi, perché fortunatamente nel nostro paese la considerazione che ho fatto è stata semplice. Nel nostro paese i bambini hanno ancora la libertà di poter girare soli, perché è un piccolo paese e non hanno bisogno di essere accompagnati dai genitori, per cui mi sono posto il problema: se una struttura a me vicina è stata allertata, mi pongo anch'io il problema della tutela dei miei bambini. Quindi ho fatto semplicemente questo. Solamente che l'informazione era falsa. Adesso ci arriviamo. Diciamo che poi i social hanno fatto il resto, perché solitamente un piccolo paese di 400 abitanti non esce alla ribalta delle cronache proprio per nulla. Il problema è che è finito in rete e non è stato messo sicuramente dal comune, perché se uno fa una cosa di questo genere lo sa, cioè ormai è l'ambiente nel quale viviamo, no? Insomma. Esatto, ma sono d'accordo, io lo accetto, però lo devono anche accettare non tanto quelli che sostengono la mia iniziativa, che ovviamente se mi sostengono potrei avere un occhio di benevolo. No, io ritengo che anche coloro che ritengono che io abbia agito in modo errato, però devono farsi anche carico che nella società moderna i social possono succedere queste cose. Poi veniamo alla falsità della cosa. Allora, che non sia stato visto il furgone quel giorno potrebbe anche essere vero, e se vogliamo dire che è falsa la notizia per quel giorno posso anche concordare. Ma che il furgone non esista, io su questo Magari il furgone esiste, ma non c'è un molestatore a bordo, insomma, ecco. Beh, ci sono notizie, che tra l'altro non è una notizia fresca dell'altro giorno, cioè è una notizia che circola almeno da un mese e mezzo, tant'è vero che abbiamo evidenza. Addirittura da 2 anni, mi pare. Beh, questo non lo so, io ho evidenza sul Cittadino di Lodi, che ha pubblicato 2 articoli, uno il 30 di ottobre e uno l'altro giorno, per episodi avvenuti San Zenone all'Ambro, Codogno, mi sembra. Mi hanno detto Torre Vecchia Pia, cose di questo genere. Allora la domanda è, perché adesso io non è che voglio scusarmi, ho peccato di eccesso di zelo, vogliamo accusarmi di questo? Va bene, però capisco che con i se non si fa la storia. Ma se un episodio. Lei dice: se il furgone esiste, comunque ho fatto bene ad affiggere il manifesto. Diciamo, visto che non lo sappiamo, non ne siamo certi, meglio affiggere il manifesto. È il vizio italico di arrivare sempre dopo. Se succede qualcosa a un bambino, la mia coscienza di sindaco o anche di persona normalissima che era a conoscenza di un ipotetico pericolo e non ha avvisato la cittadinanza. Certo. Io come mi potrei sentire? Questo è un ragionamento, guardi, questo è un ragionamento che posso capire. Vabbè, vedremo come andrà a finire questa vicenda del furgone bianco. Grazie Antonio Petralei Razzini, sindaco di Zerbo, provincia di Pavia. Siamo quasi in chiusura con Marta Cagnola per quello che è successo ieri a X Factor. Che è successo, Marta? X Factor piace, X Factor quest'anno ha un sacco di colpi di scena e non riguardano tanto la gara ma riguardano gli abbandoni. Io vi farei sentire qualche secondo di quello che è successo ieri sera. Dite, come mai questa... Perché rispettiamo veramente gli artisti così e ci rendiamo conto che abbiamo trovato un po' di felicità nella nostra vita e... Questa diciamo che è una centrifuga che ci sta facendo proprio male a livello, cioè non si può passare nella stessa giornata dal memorial di un ragazzo alla pubblicità delle patatine, non ce la facciamo più. Allora non ce la facciamo più, non si può passare in una serata dal memorial di un ragazzo, cioè dal ricordo del rapper Cranio Randagio che è mancato qualche giorno fa, ex concorrente di X Factor, ricordo che è stato celebrazione ieri sera nella puntata, alla pubblicità delle patatine. Quindi Diana Lu così hanno motivato il fatto che si sono ritirati da X Factor con... grande caos in quel momento in studio, perché poi ognuno ha detto la sua, i giudici, il conduttore, tutti li hanno sconsigliati, e con grandi reazioni in rete, perché quasi tutti hanno detto però questa è la televisione, dovevano saperlo. Fatto sta che il secondo abbandono dopo quello dei Jarvis a X Factor sta diventando avvincente la gara, non solo per la gara ma anche per questi retroscena. Simone, vedremo come andrà dunque anche nelle prossime settimane. Intanto grazie a Marta Cagnola. Allora, vi avevamo promesso anche nei titoli di farvi sentire un'intervista con i responsabili di Foodora realizzata dalla nostra Maria Luisa Pezzali. Dopo le polemiche delle scorse settimane e la protesta dei rider, la piattaforma Foodora per la consegna di cibo a domicilio respinge le accuse di sfruttamento e dice il nostro modello si basa sulla flessibilità, altrimenti è insostenibile. Dunque non abbiamo più il tempo, e però l'intervista la potete ascoltare nella trasmissione della nostra Maria Luisa Pezzali, In essere e avere, la trovate la domenica, andate a cercare sul nostro sito. Se ve la perdete c'è ovviamente anche il podcast. Dunque, Traffico Platero, ci sentiamo alla fine per i saluti.